Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, lo sapevate che oggi chiunque può disegnare il tessuto che vuole e farselo realizzare da un colosso dei tessuti come Miroglio, che poi glielo recapita direttamente a casa? È una cosa che possono fare professionisti, ad esempio i sarti, ma anche hobbisti e le signore o i signori che si divertono in casa a fare i sarti di loro stessi o per i loro parenti. Ecco, questo è uno degli esempi di come le nuove tecnologie cambino la fabbrica, ma anche la vita di tutti noi. Di questo argomento ne parliamo in questa puntata di Fabbrica 2.4 con Giuseppe Miroglio, che è il presidente dell'omonimo gruppo tessile, il più grande gruppo tessile manifatturiero che c'è in Italia, che ci parlerà di The Color Soup, la startup che rende possibile queste cose molto strane, molto originali, ma anche di come stanno cambiando le fabbriche del gruppo Miroglio. Ne parliamo con Elena Guarene, che è la ragazza che ha fatto crescere e segue The Color Soup, la zuppa di colori, perché c'è proprio una zuppa di colori con la quale online tu ti fai il tessuto che vuoi, te lo portano a casa e poi te lo confezioni. E ne parliamo anche con Riccardo Donadon, che è il presidente di H Farm, che è il più grande incubatore di startup che c'è in Italia. Finora ha fatto nascere 100 startup con ben 17 milioni di euro investiti, creando lavoro per 600 persone. Una di queste startup è The Color Soup. Iniziamo con i giovani. Buongiorno signora Guarene. Sì, buongiorno. Ci spiega come funziona The Color Soup? Perché se io voglio disegnare un tessuto e poi farmelo portare a casa e farmi il cappotto, che cosa devo fare? Allora, è veramente, veramente semplice. Basta inserire la grafica sulla nostra piattaforma www.thecolorsoup.com. Automaticamente il sito replica la grafica su tutta la dimensione del tessuto, 1,50 m per la lunghezza che desidera il cliente, decide il tipo di tessuto, perché noi abbiamo la possibilità di far scegliere al cliente tra un panel di 20 tipi di tessuto, dal 100% naturale al 100% sintetico, dipende dal progetto, certo, della creazione che deve fare il cliente. Una volta decisa la quantità e il tipo di tessuto, aggiunge al carrello il gioco è fatto. E l'ordine. Ecco, ma sono l'ordine. Tessuti per fare di tutto, dal cappotto alla camicia? Cappotto per ora no, però la camicia sicuramente sì. Noi abbiamo soprattutto basi di cotone e poliestere, non tanto il cappotto quanto la giacca. La giacca abbiamo un cotone 290 grammi. Ecco, io posso mettere anche fotografie? Esatto. Quindi esatto. Ad esempio, se io voglio che la mia fidanzata abbia la mia fotografia sui suoi vestiti, posso farlo? Esattamente. La fotografia può essere ripetuta diverse volte su tutta la dimensione del cappotto o della giacca, oppure può anche essere... Bene, così ho un'idea per i regali di Natale. Esatto. Ma dunque, voi siete online da pochissimo, dall'ottobre del 2015. Esatto, abbiamo fatto 4 mesi di accelerazione in H Farm. Abbiamo iniziato a maggio fino a settembre. E all'inizio ottobre, esattamente il 7 ottobre, siamo andati online. Bene, mi sembra molto interessante e adesso fra poco ne parleremo con Giuseppe Miroglio, che è presidente dell'omonimo gruppo, che è anche la più grande manifattura tessile che esiste in Italia, nonché un'azienda storica. Ma prima di trattare l'argomento con lui, ecco una scheda sul gruppo. Il gruppo Miroglio è la maggior manifattura tessile italiana e una delle più antiche. Nata nel 1947 ad Alba, città dove ancora oggi ha la sede principale, Miroglio ha circa 800 milioni di euro di giro d'affari, 13.000 dipendenti, 3 stabilimenti produttivi, 49 società operative, 1.300 negozi monomarca, 11 marchi di moda femminile. Inoltre, i capi di abbigliamento dei marchi Miroglio sono presenti in più di 5.000 negozi plurimarca. Tra i marchi più noti del gruppo Miroglio ci sono Motivi, Elena Miro, Luisa Viola, Per te by Crizia, Caracter, Diana Gallesi. A livello internazionale, Miroglio è presente in 34 paesi del mondo e ha 2 importanti joint venture internazionali in Cina e in Turchia. Le attività del gruppo Miroglio sono tre, corrispondenti ad altrettante divisioni. Oltre al fashion e al tessile, che abbiamo già citato, c'è anche la divisione Supply Chain Management. Questa divisione industriale offre alle altre aziende servizi specialistici nel sourcing, cioè nell'approvvigionamento, negli acquisti e nella logistica. Miroglio venne fondata ad Alba nel 1947 da Giuseppe Miroglio, figlio di Carlo e Angela, già commercianti di stoffe sul finire dell'Ottocento. L'inizio dell'attività industriale del gruppo risale a quando Giuseppe Miroglio decide di entrare nella produzione di tessuti di seta e installa i primi telai. Nel 1955 viene creata la Veste Bene, oggi Miroglio Fashion, divisione dedicata alla produzione di confezioni in serie. Nel 1958 il gruppo Miroglio amplia la propria attività nell'area tessile con l'avvio di una moderna fabbrica di tintoria, stamperia e finissaggio di tessuti, completando così la filiera dal tessuto all'abito confezionato. Negli anni 70 Veste Bene comincia a delocalizzare la produzione, prima in Grecia, poi in altri paesi mediterranei, dalla Tunisia all'Egitto, mentre la divisione tessuti entra anche nei settori della carta transfer e delle filature. Nel 1984 viene lanciato il marchio Elena Miró e negli stessi anni il gruppo attiva una collaborazione con grandi stilisti come Moschino e Crizia. La nuova strategia porterà alla nascita degli altri brand del gruppo, Caractère e Diana Gallesi. Nel 1993 nasce invece Motivi. Nel dicembre 2004 il gruppo Miroglio sigla un accordo di joint venture con Elegant Prosper, azienda cinese specializzata nell'abbigliamento femminile di medio-alto livello. Nel settembre 2005 il brand Elena Miró fa sfilare sulle passerelle di Milano Moda Donna modelle taglia 48 e oltre, consolidando la propria leadership nel settore delle taglie forti. Dottor Miroglio, eccoci. Come sta? Buongiorno, bene, lei? Anch'io molto bene, spero anche gli ascoltatori che ci sentono. Senta, questa iniziativa è nata all'interno della vostra innovation area, credo che si chiami, no? Miroglio Innovation Program. Può spiegare di che cosa si tratta? Sì, si tratta di un programma che abbiamo voluto lanciare nello scorso anno con l'obiettivo sostanzialmente di stimolare e dare input innovativi a tutta la struttura aziendale. E sostanzialmente abbiamo lavorato su due assi: da un lato quello di andare a fare un po' di antenna nei confronti del mercato, quindi cercare di scautare, se si può dire così, quello che sta succedendo sul mercato un po' in tutta la filiera del tessile abbigliamento, quindi dall'RFID fino ad arrivare alle tecnologie nei punti vendita, e questo grazie anche alla collaborazione con H-Farm, e cercare quindi di tradurre questi input all'interno della struttura nostra aziendale e nelle varie aree aziendali interessate. Dall'altra parte invece la nostra idea è quella di anche promuovere una sorta di imprenditoria all'interno dell'azienda, e l'abbiamo voluto fare proprio lanciando una startup on demand in qualche maniera, quindi realizzando The Color Soup, che ci auguriamo sia un po' un esempio, il primo di una serie di startup che portino innovazione all'interno di un'azienda che, come puoi immaginare, date le dimensioni, è tendenzialmente abbastanza inquadrata in termini di processi, in termini di struttura. Sì, per voi i processi sono molto importanti, tanto che avete anche una divisione che offre la gestione della logistica e la supply chain per conto terzi. Esatto, noi copriamo sostanzialmente tutta la filiera del tessile abbigliamento, dalla filatura fino al retail, quindi alla vendita direttamente alla consumatrice, quindi abbiamo una conoscenza molto approfondita di tutta la filiera. Ecco, ma il vostro gruppo come sta cambiando? Ma il nostro gruppo sta cambiando prima di tutto cercando di andare sempre più vicino al cliente, al consumatore, e per fare questo ha bisogno di rinnovare, di semplificare i propri processi, perché noi crediamo che oggi sia molto importante essere vicini ai clienti ed essere in grado di reagire tempestivamente alle richieste dei clienti, e questo vale sia per le nostre attività B2C, quindi mm-hmm. quelle direttamente al consumatore, ma anche per quanto riguarda l'attività B2B, quindi lei ha citato la nostra capacità manifatturiera, noi in particolare siamo una delle aziende leader in Europa nel tessuto stampato, serviamo tutte le più grandi catene in Europa. Infatti i tessuti di The Color Soup sono tessuti stampati. Esattamente, esattamente. Diciamo che Color Soup rappresenta un po', se vogliamo, un'innovazione anche di processo, perché in qualche maniera la volontà di portare direttamente la fabbrica al consumatore, quindi è un modello un po' particolare in cui crediamo molto, che segue anche il filone della customizzazione che vediamo in grande crescita. La customizzazione di massa, che è il prodotto della rete. Esattamente, quello credo che sia un trend che inizia oggi a svilupparsi, ma sarà sicuramente destinato a crescere in futuro. E certo, le nuove tecnologie producono questo, ma a parte The Color Soup, che per ora è una piccola cosa e non potrebbe essere altrimenti, perché non è che sono in tanti a poter essere in grado di fare questo, e soprattutto l'avete lanciata da un mese, quindi ci vorranno alcuni mesi, alcuni anni perché si diffonda. Ci può raccontare altre cose che avete fatto con le nuove tecnologie e che cosa rappresenta per voi il trend della fabbrica 4.0, del cosiddetto Internet delle cose? Ma guardi, penso che l'esempio più eclatante sia venuto proprio in area tessile, nel senso che lei consideri che la stampa tessile è un processo industriale vecchissimo, uno dei più antichi nel mondo. La tradizionale tecnica di stampa, quella rotativa, ha delle origini che risalgono a più di 200 anni fa. Poi chiaramente c'è stata un'evoluzione nella meccanica, eccetera, però il processo è sempre lo stesso. Negli ultimi 10 anni c'è stato invece una decisa accelerazione per quanto riguarda l'innovazione tecnologica con l'avvento della stampa digitale. Cioè, sostanzialmente si tratta di grandi stampanti come quelle che possiamo avere tutti noi sulla nostra scrivania, che però servono per stampare il tessuto. E in particolare, grazie, e qui devo dire, l'Italia rappresenta un po' una punta di diamante nella ricerca e nell'innovazione tecnologica nella stampa di tessuto. Noi siamo stati una delle prime aziende a credere in questa tecnologia che sta progredendo costantemente, abbiamo fatto fortissimi investimenti industriali e questo ci sta pagando molto sul mercato, ci sta dando degli ottimi risultati proprio perché ci differenziamo rispetto alla concorrenza per essere un'azienda che è molto attenta all'innovazione, alla tecnologia, e questo si traduce in un miglior servizio, una maggiore creatività e, non da ultimo, anzi direi decisamente importante, un impatto di sostenibilità ambientale molto importante, quindi siamo un'azienda molto eco-friendly. Ci interrompiamo un attimo per una pausa degli avvisi sul traffico, restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stavamo parlando del gruppo Miroglio, che è il più grande manifatturiero tessile che c'è in Italia, e di come nel tessile e nelle fabbriche le tecnologie cambino le cose, tanto che c'è questa startup che si chiama The Color Soup, creata da H-Farm, che è il più grande incubatore di startup che esiste in Italia. Ecco, la startup The Color Soup permette a chiunque di disegnare il tessuto che vuole, Miroglio lo produce, poi glielo recapita a casa, basta addirittura un metro quadro. Quindi io adesso so che cosa regalare non solo alla mia fidanzata, anzi alle mie fidanzate, che non sono poche, ma a tutti quelli che conosco regalerò tessuti con la mia foto. Penso che adesso chiudiamo qua e facciamo 50 metri di roba e non se ne parli più. Vediamo poi cosa faranno confezionare con questo, perché è lì che sta l'incognita. Torniamo a noi. Senta, ma dottor Miroglio, ma quante fabbriche voi avete adesso? Noi al momento abbiamo una fabbrica di filatura fuori dall'Italia, in Tunisia, e 2 fabbriche di stampa qui in Italia, in realtà proprio vicino alla nostra sede, noi siamo basati ad Alba. Certo. E per noi è importante la stampa che si è fatta in Italia, oltre al fatto che è un valore aggiunto l'essere in Italia dal punto di vista della qualità, della creatività, è anche molto importante perché noi serviamo il mercato del bacino del Mediterraneo, e quindi la prossimità, la possibilità di essere veloci è decisamente importante. Ecco, voi siete stati insieme a Zegna tra quelli che hanno avuto l'intuizione di presidiare tutta la filiera, compresi i negozi monomarca. Sì, esatto, noi abbiamo radici manifatturiere, nasciamo nel secondo dopoguerra come produttori di tessuti e di abbigliamento, come confezionisti sostanzialmente. Ma poi negli anni 90 abbiamo iniziato a aprire i nostri punti vendita, abbiamo iniziato quindi a sviluppare dei progetti retail che ci hanno portato oggi ad avere 1300 punti vendita con tutti i nostri marchi, quindi abbiamo una presenza piuttosto capillare sul mercato. Soprattutto il marchio della moda donna. Sì, esatto, noi solamente moda femminile, quindi presidiamo esclusivamente il mercato femminile, lo facciamo. Invece per il mercato maschile ci sono solo i tessuti. Sì, Però il perimetro manifatturiero del vostro gruppo negli ultimi anni si è un pochino ristretto, come mai? Ma perché partendo dal presupposto che il tessile in generale negli anni 2000 è passato attraverso una crisi molto profonda, il tessile in Italia, e noi a un certo momento ci siamo trovati davanti alla scelta se rimanere nel tessile o uscire, considerando il fatto che la nostra parte principale di fatturato è il retail e il fashion. Chiaramente era una scelta, non è stata una scelta facile pensare di rimanere nel tessile in un mercato che non ci dava soddisfazioni, in cui era necessario mettere risorse. Però ci abbiamo creduto, abbiamo pensato che potesse esserci un futuro per il tessile in Italia. Abbiamo dovuto ristrutturare, quindi abbiamo dovuto potare alcuni rami che non erano più sostenibili, quindi abbiamo ridotto il perimetro della nostra area tessile. Però quello che, su cui abbiamo deciso di concentrarci, il nostro core, quindi il tessuto stampato, lì abbiamo fatto grandi investimenti e quella è la nostra area. Voi avete annunciato un piano di rilancio triennale, ci può dire in estrema sintesi in che cosa consiste questo piano? Ma noi abbiamo fatto negli anni scorsi, negli ultimi 3 anni, 25 milioni di investimenti nel tessile, proprio in tecnologia di stampa. È stato un piano molto impegnativo dal punto di vista degli investimenti. Adesso si tratta di fare in modo che questi investimenti, questa tecnologia, riesca a farci crescere sul mercato, e già il 2015 è stato da questo punto di vista un anno soddisfacente. Ecco, adesso andiamo a parlare con l'ultimo dei nostri ospiti, non in ordine di importanza, anzi in genere il più importante viene alla fine, lo dico perché è la scusa che si usa sempre, Riccardo Donadon, buongiorno. Buongiorno. Allora, voi siete H-Farm e fate l'incubatore di start-up che sono soprattutto nel mondo digitale. Allora, i nostri ascoltatori si chiederanno: ma che cosa c'entra questo in un programma sulla fabbrica? C'entra, e c'entra moltissimo, perché una delle vostre mission fondamentali è favorire la nascita di progetti che semplifichino l'utilizzo di strumenti e servizi digitali a persone e aziende, supportando infatti le aziende nella trasformazione dei loro processi in ottica digitale. In poche parole, alcune delle vostre start-up accompagnano le aziende della old economy, le aziende più tradizionali, quali Miroglio, che abbiamo appena sentito, verso il digitale e verso il creare valore nel digitale, verso il cambiamento della manifattura, giusto, no? Sì, assolutamente. Sono 10 anni che investiamo sulle nuove iniziative, su nuove idee che possono in qualche modo introdursi nello scenario delle imprese con dell'innovazione. E quello che abbiamo capito in questi anni è che è fondamentale che avviciniamo i giovani con le loro idee, con la loro energia, a quelli che sono i need in termini di innovazione, quindi a quelli che sono i bisogni che possono avere le imprese tradizionali per evolvere e per continuare a crescere. E questa cosa qui può essere win-win sia per i giovani, che trovano con più facilità un aiuto per partire con una nuova impresa, sia, come si sentiva adesso con la storia raccontata da Giuseppe Miroglio, per quello che può essere per l'azienda uno stimolo a innovare, a continuare a crescere, a svilupparsi con un modello di business che vada a risolvere quelli che sono i temi nuovi del mercato che sta evolvendo. Tra l'altro Giuseppe Miroglio è uno degli azionisti di H-Farm, ma per avere un'idea precisa di che cos'è H-Farm, ecco una breve scheda. H-Farm, nata 10 anni fa, è il più importante incubatore italiano di startup. Farm vuol dire azienda agricola o fattoria, mentre H è l'iniziale della parola inglese human. Quotata recentemente all'AIM, la borsa delle piccole imprese di Milano, H-Farm finora ha fatto nascere ben 100 aziende, investendo direttamente circa 17 milioni di euro e creando lavoro per quasi 600 persone. L'azienda, guidata dal fondatore Riccardo Donadon, ha la sede principale in uno splendido casolare a Roncade, in provincia di Treviso, e sedi secondarie a Londra, Seattle e Mumbai, in India. H-Farm si autodefinisce come una piattaforma digitale con l'obiettivo di aiutare giovani imprenditori nel lancio di iniziative innovative e di supportare la trasformazione delle aziende italiane in un'ottica digitale. In pratica, si propone di creare valore accompagnando le industrie manifatturiere della old economy italiana verso l'evoluzione digitale. Gli azionisti principali di H-Farm sono il fondatore Riccardo Donadonna con l'11,45% del capitale, il re dei jeans diesel Renzo Rosso con l'11,42%, Giuseppe Miroglio con l'8,64%. La famiglia Jol, composta da ex soci dei supermercati PAM che ora si dedicano alla produzione di vino e ad altre attività nella zona, ha il 6,24%. Veneto Sviluppo, la finanziaria della Regione Veneto, ha il 4%. Il flottante sull'AIM corrisponde al 19% del capitale. Il resto è distribuito fra piccoli azionisti, molti dei quali sono dipendenti o collaboratori H-Farm. Ed eccoci in linea con Riccardo Donadon, che è il creatore di H-Farm. E il claim è: l'innovazione deve pervadere i modelli delle aziende. Tra l'altro, la musichetta che avete appena sentito in sottofondo è la musichetta che loro usano nel loro sito per accompagnare quelle che chiamano le hackathon, le maratone di hacking, in cui ci sono 24 ore durante le quali i ragazzi si ritirano in un luogo chiuso e risolvono problemi tecnologici e tecnici posti dalle aziende. Senta, ma ci spiega come fate praticamente ad aiutare le aziende manifatturiere tradizionali ad evolvere? Ma noi abbiamo fondamentalmente tre linee di business all'interno di H-Farm. Una che è completamente votata a cercare le migliori idee, ne vediamo circa un migliaio ogni anno, e selezioniamo quelle più interessanti. Ogni sei mesi ci diamo un tema. Adesso, per dire, la prossima selezione è proprio stata focalizzata su tutto quello che è fashion e retail, quindi torniamo nuovamente sul tema del fashion. Cercheremo le migliori iniziative per trovare dei talenti, dei ragazzi che sono in grado di far partire una nuova impresa. Questa cosa qui ormai la facciamo con una cadenza regolare, abbiamo, come è stato detto, investito su tante aziende. Quindi ecco, poi il modello che avete creato con Miroglio di incubare al vostro interno una startup che poi serve a un grande gruppo, pensate di riprodurlo? Assolutamente sì, perché un'altra delle divisioni è proprio quella della trasformazione digitale delle imprese, dove mettiamo a fattor comune questo continuo scouting di iniziative interessanti e poi cerchiamo di focalizzarle o di crearle proprio ad hoc per risolvere degli stream di necessità che possono nascere all'interno dell'azienda. Mentre la terza area è quella dell'educazione, della formazione, dove fondamentalmente cerchiamo di accompagnare l'azienda, una volta che intraprende un percorso di questo tipo, a far crescere anche le persone al proprio interno, che poi devono interpretarsi in questi nuovi modelli di business, in queste nuove relazioni con il mercato. Comunque voi avete creato lavoro per quasi 600 persone finora, giusto? Sì, c'è una parte consistente, è questa che fa i servizi, che cura proprio per molte grandi aziende questa attività di ricerca e di sviluppo di nuove soluzioni e di integrazione della tecnologia all'interno dell'azienda. Però è fortissima all'interno anche quest'area di formazione che accennavo per ultimo. Certamente. Che sta crescendo tantissimo. Purtroppo il tempo è tiranno, saluto e ringrazio Riccardo Donadon. Grazie. Saluto Giuseppe Miroglio, che mi auguro di risentire presto in una puntata che mi piacerebbe dedicare specificamente al gruppo. Grazie, arrivederci. E saluto Elena, che fra poco riceverà un ordine di metri e metri di tessuti con la mia foto. Grazie mille, aspettiamo. Arrivederci alla prossima puntata, domani ore 13:15. Non mancate.